Uno, due, tre. Giro, giro, tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. La. La. Ancora. Giro, giro, tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Ancora? Aspetta. In piedi? Sì. Ecco. Giro, giro, tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Meglio. Tu c'è qui, nessuno. Non passa nessuno. C'è il cane.